Italia in controluce. Sono le 13:33 minuti e 11 secondi ed è Radio 24, il Sole 24 Ore, la radio che stai ascoltando. Daniele Biacchessi in Italia in controluce racconta i fatti e le storie della cronaca italiana. La prima vicenda, la prima storia riguarda la mala sanità, la mala integrazione. Ce la racconta Dario Ceccarelli. Dolore e costernazione per la vicenda della piccola Rachel, la bambina di 13 mesi morta al pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, per una pesante forma di dissenteria. I genitori della piccola, nigeriani da 11 anni in Italia, accusano i medici di gravi negligenze e scarsa umanità, tanto che il ricovero della bambina sarebbe avvenuto solo grazie all'intervento dei carabinieri. Sentiamo la mamma della piccola, Linda, che insiste in particolare sui ritardi nelle cure. 3 giorni che era lì, né toccare né niente, né provare come funziona, niente, era lì. È vero che sono stati necessari i carabinieri perché la bambina fosse portata dentro l'ospedale? L'ospedale che ha chiamato i carabinieri disse che se noi non andare via lo chiama carabinieri per noi. Questo era il primo giorno quando abbiamo andato sul posto soccorso. Lei si aspettava in Italia un trattamento del genere? Assolutamente no, assolutamente no. Da quanto tempo siete in Italia? Io sono qua da 97. E suo marito? Lui prima di me. Sì. Da tanto tempo, insomma. Sì, lui prima di me. Quindi voi vivete in Italia da tanto tempo e vi aspettavate che, insomma, in Italia gli ospedali vi accogliessero? Sì, io non pensavo una cosa così perché... Io so che il mio paese, che è anche terzo mondo, queste cose qua non può succedere una bambina così. La direzione sanitaria respinge ogni accusa, in particolare quella che il fatto non sarebbe successo se la piccola fosse stata italiana. Il dottor Ruggero Rocchi. Quello che lascia perplesso veramente è questo, non tanto le denunce sulle responsabilità professionali che sono, uno veramente poi procede come ritiene più necessario, ma le accuse di razzismo e discriminazione indirizzate verso una struttura pubblica che accoglie, le do un po' di dati, nel 2009 noi abbiamo in azienda ospedaliera 3 pronto soccorso, uno a Vizzolo Predavissi dove sono stati visti 7.131 pazienti stranieri, uno a Melzo dove sono stati visti 5.000 pazienti stranieri e il pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, che è poi l'ospedale dove è avvenuto un po' il fatto, sono stati visti nel corso del 2009 6.262 utenti stranieri. Questo descrive già cosa facciamo, insomma, non si capisce veramente, uccisa dalla burocrazia. Se fosse stata italiana non sarebbe successo, va sicuramente respinto con fermezza non solo dall'azienda ma da tutti gli operatori del settore pubblico e privato accreditato. Perché l'accesso al servizio sanitario regionale è regolamentato da precise normative che garantiscono ai cittadini stranieri l'assistenza sanitaria a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, senza discriminazioni sulla regolarità dei documenti di soggiorno. La procura ha aperto un'indagine, resta comunque il problema di un non facile rapporto tra strutture sanitarie e cittadini extracomunitari. Sentiamo Fabrizio Signorelli, medico volontario del NAGA, l'associazione che tutela i diritti di tutti i cittadini stranieri. Quello che ci dà l'impressione è che da parte delle direzioni sanitarie manchi in realtà un'informazione e una volontà di far sì che questa legge venga veramente applicata. Cioè tutti sanno che la legge esiste, ma in realtà pochi la applicano e quindi molte volte i pazienti stranieri vengono sì visti perché nessuno rifiuta una prima vista in un pronto soccorso a uno straniero, ma invece di seguire poi un iter che vengo inviato a fare le visite seguenti attraverso una modalità ben precisa e ben stabilita dalla legge, tendo a far finta di niente, tendo a dire che lo straniero irregolare non devo seguirlo e lo mando alle strutture di volontariato o in altri posti. Di fatto negandogli quello che non è un atto volontario di bontà nei suoi confronti o qualcosa del genere, ma negandogli quello che è un diritto che la legge sancisce in maniera chiara, dicendo che agli stranieri irregolari è permesso accedere ai servizi sanitari attraverso quella modalità, quindi codice STP. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Italia in controluce. La seconda storia viene da Palermo e ci racconta la memoria di una persona uccisa dalla mafia e che oggi rivive attraverso una radio. Questa è la storia di Radio Centopasse, emittente che molti anni fa si chiamava in realtà Radio Out ed era diretta da Peppino Impastato ai tempi delle radio libere, ai tempi dei pionieri delle radio libere. E Impastato era uno di questi. Radio Centopassi in questi mesi ha riaperto i battenti con l'intento di denunciare tutte le collusioni tra mafia e politica. Nino Amadore. Ci sono ancora nel cuore di Palermo, in una sorta di aria franca della legalità che si trova in piazza Tavola Tonda, un'enclave di giustizia e solidarietà che almeno 4 associazioni cittadine animano e sostengono. Qui, in una piazza che si trova di fronte al porto della Cala, questa è una periferia in pieno centro città, fatto frequente nel capoluogo siciliano. Qui si trova Radio Centopassi, creata nel nome di Peppino Impastato, il militante di Democrazia Proletaria, ucciso dalla mafia a Cinisi in provincia di Palermo nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978. Il 7 marzo, alla vigilia del debutto, a Radio Centopassi è stato rubato tutto. È stato Danilo Sulis a regalare a Peppino Impastato il trasmettitore poi utilizzato per Radio Out. Ed è lui uno degli animatori di questa radio che promuove una rete internazionale nel nome della lotta alla mafia e per la legalità. È Danilo che ci racconta cos'è oggi Piazza Tavola Tonda. Il protagonista è appunto il centro culturale Tavola Tonda, le due associazioni che compongono la radio, che sono Rete Centopassi e Centopassi Network. Ma fondamentalmente alcune realtà già esistenti, ne siamo gli ultimi arrivati con Radio Centopassi, Ubuntu, che è un asilo di volontari e che tiene circa 40 bambini extracomunitari e bambini del quartiere. Poi c'è un ambulatorio pediatrico gratuito e poi c'è una scuola che fatta dagli insegnanti della scuola Peppino Impastato, anche tutti sempre volontari, che consentono alla gente del luogo di prendere la licenza media. Sempre attivo nella stessa palazzina, sempre girando, c'è un circolo arci che fa corsi di circo, corsi di musica e varie attività. Un centro culturale che è già un modello di legalità, ma è il nome di Peppino Impastato che potrebbe aver dato fastidio, il suo grande valore simbolico, dice Danilo. Credo peraltro che ci sia invece anche un accanimento nei confronti della figura proprio di Peppino Impastato, così come è stata colpita Radio Centopassi ancor prima che cominciasse a parlare, e dopo una settimana dalla devastazione, dal furto a Radio Centopassi, la biblioteca della scuola Peppino Impastato, che si trova da tutt'altra parte, è stata bruciata. Liborio Martorana, un falegname che ha arredato i locali e che nel furto ha perso anche gli attrezzi da lavoro, è lui che spiega. A chi avete dato fastidio, secondo lei? Io non so onestamente a chi abbiamo dato fastidio, però se noi andiamo ad analizzare bene il punto geografico dove si trova il centro Tavola Tonda, che può subire l'influenza di famiglie mafiose, quali possono essere le famiglie del Borgo Vecchio, le famiglie della Calza, le famiglie del mandamento Portanuova, allora a questo punto possono venire fuori tutta una serie di congetture e di supposizioni che ci lasciano un pochettino così con l'interrogativo. Io non lo so a chi abbiamo dato fastidio, di sicuro con molta probabilità la diffusione della cultura della legalità è una cosa che dà fastidio a chi proprio non vuole assolutamente far parte di questi circuiti di diffusione di legalità. La radio, che è possibile ascoltare su internet all'indirizzo www.radiocentopassi.net, ha un obiettivo internazionale, così come l'attività delle mafie, che è ormai globale. Ancora Danilo. Sì, la mafia oggi non è più una questione di quartieri. I Centopassi che dividevano la casa di Peppino Impastato da quella di Badalamenti oggi sono un passo in proporzione alle migliaia che dobbiamo fare per andare là dove le mafie, non solo con la Sicilia, ma le mafie in generale, hanno investito la loro capitale, cioè in tutta Europa, soprattutto nell'Est, eccetera, eccetera. Italia in controluce. Da Palermo, molto più a nord, a Trieste, questa terza storia ambientata proprio a Trieste, ce la racconta Andrea Saule. Che cosa si può fare per salvare il futuro di un porto in crisi, bloccato da norme vecchie e per di più soffocato dalla concorrenza? Semplice, la secessione è il ritorno al territorio libero di Trieste. La rivoluzionaria idea sul porto del capoluogo giuliano non viene dalla Lega Nord, da queste parti praticamente inesistente, ma dagli iscritti del comitato Porto Libero di Trieste, che in questi giorni hanno scritto una missiva all'ONU chiedendo di venire riconosciuti come cittadini originari del territorio, applicando di fatto gli accordi di pace di Parigi del 1947. Accordi che in sostanza prevedevano la creazione del celebre territorio libero di Trieste, ma anche, nell'allegato ottavo, della libertà del suo porto. Secondo il comitato, l'Italia del 1954 avrebbe occupato abusivamente l'area, dimenticandosi tra le altre cose di inserirla nel Trattato di Osimo del 75, cose risapute da queste parti, ma di cui nessuno si era mai preso la briga di informare l'ONU che, non essendo di fatto il TLT mai stato cancellato, sarà tenuto a rispondere a tono. Per assurdo, confermano fonti dell'organizzazione, se la commissione valutasse l'illegittimità potrebbe mandare addirittura dei caschi blu per garantire la sicurezza dei cittadini del territorio demilitarizzato. Ci spiega le ragioni storiche il promotore dell'iniziativa, l'intermediario portuale svizzero Marcus Donato. Il territorio del porto di Trieste non è extradoganale, ma è extraterritoriale, con una propria costituzione, che è del famoso allegato ottavo del trattato di pace. Per cui la situazione che deriva è che abbiamo a che fare con uno Stato internazionale che deve essere amministrato da cittadini triestini che compongono praticamente la presidenza di della cosiddetta Commissione internazionale, che è composta da rappresentanti di 17 nazioni del centro Europa. Ma al di là di questioni anacronistiche su basi interpretative, l'Italia ha sempre sostenuto che il termine free andasse interpretato come franco e non come libero. Quello che è certo è che il porto, e con esso tutta la città, è in fase di caduta libera. Il volume di traffico, soprattutto quello dei container, nel 2009 è diminuito di oltre il 17%. Alle 13:45 minuti vi saluta qui Daniele Biacchesi, l'archivio delle puntate di Italia Controluce su www.radio24.it. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.